Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia di questa settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente ci occuperemo anche delle elezioni o le votazioni spagnole, nel senso che non è tanto il tema politico di Podemos e la conquista delle principali città spagnole, il crollo dei consensi per il PPE, per il Partito Popolare Spagnolo del Premier Rajoy, chiaramente Podemos era alleato con i socialisti, però insomma è inutile girarci attorno. Podemos ha conquistato anche Barcellona, avrà il sindaco di Madrid. È l'inizio, dice il leader di Podemos Iglesias, della fine del bipartitismo. E devo dire che il Presidente del Consiglio italiano Renzi può anche dire il vento della Grecia, della Spagna, della Polonia non soffiano nella stessa direzione, ma e anzi soffiano in direzione opposta, ma tutti questi venti dicono che l'Europa deve cambiare. Il problema è che l'Europa non sta cambiando, nel senso che Podemos, poi ogni analisi è diversa, ci mancherebbe, la Grecia è un caso specifico, la Spagna non ha niente a che vedere con la Grecia. Però insomma il rifiuto per questo tipo di gestione dell'Europa non può far stare tranquilli, non può semplicemente vabbè, bisognerà cambiare l'Europa. No, attenzione, qui in gioco c'è il fatto stesso che nel momento in cui tu ancora non riesci a uscire dalla crisi greca per colpa dei greci che non presentano un piano di riforme, ne parleremo perché anche oggi dichiarazioni di vario genere, Varoufakis, il ministro delle finanze greco, ha detto che il governo greco è pronto a realizzare un'agenda che includa tutte le riforme ma stop all'austerity. Il nodo del disaccordo è cosa fare del surplus di bilancio, cioè quello che resta in cassa ai greci dopo al netto di entrate e uscite e senza considerare gli interessi sul debito. Su di noi c'è una stretta doppia rispetto ad altri paesi. Varoufakis, che ieri aveva detto attenzione, l'uscita della Grecia dall'euro sarebbe l'inizio della fine del progetto dell'euro. Ora è inutile girarci attorno, se c'è un rafforzamento dei partiti che non dico siano contro l'euro in senso stretto, perché Tsipras non ha mai detto di voler uscire dall'euro, ma contro questa gestione dell'Europa da parte dei paesi dell'area euro, questa gestione tutta di austerity tedesca, insomma la sconfitta è per gli attuali leader. E quindi dico anche al Premier Renzi, attenzione, perché c'è poco da dire. Soffiano in direzioni diverse, ma tutti per il cambiamento. L'Europa non sta cambiando e l'Italia non è che abbia avuto questa politica così aggressiva per chiedere un cambiamento. Quindi la situazione si complica da un lato. Qualcuno mi scrive basta Grecia, siamo in Italia. Beh, guardi, questo mi fa capire che lei non ha capito, nel senso, non siamo in Italia, siamo nell'area euro, piaccia o non piaccia, e quello che capita in Grecia o politicamente capita in Spagna e in Polonia ha un'influenza anche sul nostro futuro economico, perché poi il patto di stabilità, il deficit al 3%, l'impossibilità di contemplare investimenti e distinguere tra investimenti in infrastrutture e spesa invece per i costi della pubblica amministrazione, cioè tra deficit buono e deficit cattivo, l'impossibilità di avviare eurobond o piani di investimento di carattere europeo, tutto questo deriva dal fatto che siamo nell'area euro e in Europa e che c'è una certa impostazione nell'area euro, ok? Altrimenti uno avrebbe potuto trovare già degli altri meccanismi, più volte ne abbiamo parlato, ripeto, distinguere tra investimenti e costi, individuare un insieme di opere che possono essere finanziate, diciamo, tante o alcuni elementi per cui tu puoi superare il 3% del deficit PIL, a patto che, ripeto, non siano spese e sprechi ma siano investimenti veri. Non c'è nessuno, niente di tutto questo, c'è stato un po' di margine in più per i paesi virtuosi che hanno un po' più di flessibilità, ma poca cosa. E soprattutto, al di là di quello che penso io, che pensa l'ascoltatore, il problema vero è quello che pensa l'opinione pubblica dell'area euro. E dopo Tsipras e Syriza c'è Podemos e la Polonia ha votato in un certo modo, e vedremo come continuerà questo ciclo. Di questo parleremo anche della borsa, meno 1,70% oggi Milano, con un calo pesante su Finmeccanica, meno 4%. Parleremo anche della scuola. Beh, visto che parlavo della borsa, vi do anche il resto dei titoli. Fiat Chrysler perde il 3%, E ancora il Saipem il 3, Unicredit il 2,90 di calo, UbiBanca meno 2,50, Exor meno 2,40, Pop Emilia Romagna meno 2,20 come Buzzunice, Banco Popolare meno 2% come la Pop Milano, Intesa San Paolo e Mediaset. Fronte opposto Autogrill più 0,30 e da questo punto di vista Monte dei Paschi non ha fatto prezzo né l'azione né il diritto. Oggi inizia la negoziazione dei diritti e l'aumento di capitale, dopo che Draghi ha detto oggi che l'aumento di capitale comunque per il Monte dei Paschi non basterà a risolvere i problemi strutturali del Monte dei Paschi. Tra di titoli positivi non c'è praticamente nulla oggi sul listino. L'euro è a quota 1,09, l'ultima cifra è quella per i vostri sms 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Scusate, lo dico a chi scrive, non abbiamo mai detto che sia colpa di Renzi quello che è successo in Spagna, che poi non è neanche una colpa, è un prendere, ho detto solo che il premier deve stare, non può dire, vabbè, sono venti di cambiamento, sì, ma sono venti di cambiamento che rischiano di far saltare il banco, cioè Renzi non ha nessuna responsabilità né per quello che è successo in Spagna né per la gestione di questa Europa, dico solo attenzione, perché come era facile prevedere un'Europa a trazione tedesca e nord europea, tutta concentrata sull'austerità, tutta che se ne fregava del fatto che se alcuni paesi devono risparmiare, tipicamente quelli del sud Europa, altri devono spendere un po' di più, invece non ci vogliono sentire da questo orecchio i tedeschi, è un'Europa che poi rischia di ritorcersi di contro, perché il danno per la Germania e i paesi del nord nel caso saltasse l'euro sarebbe forse anche più forte che per i paesi del sud. Allora, andiamo avanti con il resto delle notizie. Poi arriveremo a questo. Avremo il mitico nostro uccellaccio Giulio Sapelli, il professor Giulio Sapelli, alle 18:15, proprio su questi temi. Andiamo avanti con il resto, dicevo, oltre alla Grecia e alla Spagna, ma visto che parliamo di Grecia e Spagna, sentiamoci anche i 100 secondi di Radio 24, sulle 24 ore realizzati e che vanno in onda anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Alessandro Platerotti. Buon pomeriggio, non sarà stato un lunedì nero ma certamente un lunedì grigio per i mercati finanziari, questo lo è stato. L'annuncio della Grecia di avere, diciamo così, mettere in dubbio il pagamento del 1,5 miliardi di euro che deve al Fondo Monetario ha lanciato un po' una scossa di nervosismo su quei mercati finanziari aperti, visto che oggi Wall Street, Londra e la Germania sono rimaste chiuse. Le principali borse oggi che stanno pagando quest'area di nervosismo sono ovviamente l'Italia, quella che è considerata nell'ambito dei PIX, ma anche la Spagna, dove la vittoria alle amministrative spagnole di Podemos ha dato un segnale, un allarme molto serio non soltanto ai mercati finanziari ma anche all'Europa. Le situazioni di crisi per ora sono uno, quello della Grecia, ma non è detto che l'onda politica del dissenso nei confronti delle rigidità europee e la difficoltà di trovare un compromesso sulla Grecia non producano scossoni più forti e più sentiti durante il resto della settimana. Che cosa possiamo dire? Che la Grecia sta andando incontro alla bancarotta? No, questo non si può dire ed è bene ricordarlo, anche per un motivo. Il Fondo Monetario non è un soggetto internazionale riconosciuto come una banca o come un creditore, è un soggetto molto particolare per il quale mancare i pagamenti non è default, ma questo non significa che con la crisi della Grecia non ci sia un default maggiore, quello della solidarietà in Europa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Non ho dato, mi ricordate gli indici? Beh, è aperta Parigi che fa meno 0,50%. Appunto, sia Londra che Francoforte che New York sono chiuse. Guardate, adesso dobbiamo andare sugli altri temi. Parleremo anche di scuole, parleremo anche del bilancio dello IOR, della Banca del Vaticano, che ha aumentato di moltissimo gli utili grazie alle intermediazioni finanziarie. Quindi, insomma, vuol dire che sanno come investire nel Vaticano. Però attenzione. Il problema non è capire se i greci ci abbiano preso in giro, se i greci non dovessero entrare nell'euro, se come scrivono molti, lo si sapeva fin dall'inizio che non sarebbero riusciti a ripagare il debito in quel modo. L'abbiamo detto anche noi modestamente, anche perché se tu chiedi alla Grecia di utilizzare tutto l'avanzo primario che ha, cioè quello che resta in cassa tra entrate e uscite, per pagare gli interessi, chiaro che quell'economia non ripartirà più. Ma il problema non è nemmeno questo, è decidere se andiamo avanti con i principi, come stanno facendo i tedeschi, e quindi no, i patti si rispettano, pacta sunt servanda, e vai dritto in questo modo, va bene, è una scelta, ti assumi ogni responsabilità. Oppure, se con quella che una volta si chiamava Realpolitik, che nasce anche in Germania e nel mondo della Mitteleuropa, vogliamo citare e scomodare Metternich piuttosto che Talleyrand, uno diventa più realista e dice: mi conviene più rispettare il principio o e creare uno tsunami di carattere finanziario, tensioni sui mercati nell'anno in cui l'area euro dovrebbe conoscere un po' di ripresa, in cui c'è la migliore delle situazioni possibili tra petrolio, euro e tassi di interesse, oppure ammettere che tanto la Grecia in queste condizioni l'unica cosa che possiamo fare è dilazionare il prestito a 20 anni e fare in modo che formalmente lo ripaghi tra 20 anni, tanto non c'è speranza che in questo momento la Grecia riesca a ripagare come vorremmo le tranche. Questo è, cioè, tra ideologia, se vogliamo, principio e realpolitik, è una scelta, dopodiché uno deve essere consapevole delle conseguenze che ha. La seconda, essere realisti, vabbè, e dire ok, vieni meno al principio, però tanto ormai questa è la situazione in Grecia. Oppure segui il principio, ma poi non ti lamenti se questo crea uno sconquasso, un'instabilità endemica, perenne e molto pericolosa nell'area euro, rischiando di buttare via anche l'opportunità di questa ripresa. Come capite, chi vi parla avrebbe anche... cioè, io non ho dubbi che la migliore ipotesi sia quella, diciamo, della realpolitik, di ammettere che tanto non ne esci in questo modo con la Grecia, troviamo una soluzione che non ci faccia perdere la faccia, ma prendiamo atto del fatto, dai, che tanto la Grecia non ripaga. Breaking news. Due tifosi accoltellati fuori dall'Olimpico a pochi minuti dall'inizio del derby della capitale, che scatta alle 18. Dalle prime informazioni sembra si tratti di due tifosi della Roma. Sono stati trasportati al Policlinico Gemelli in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. Il ferimento è accaduto sul lungotevere Town de Revel all'altezza di via Giulio Romaneo. Tutti gli approfondimenti in GR24 delle 18. Grazie a Dario Ricci e alla redazione per questo aggiornamento, che non avremmo voluto ricevere, ma giustamente complica anche molto le cose alla luce del derby e di questa sera. Andiamo avanti con le altre notizie. Dicevo, al di là dei mercati, della Grecia, dei conti dello IOR, oggi abbiamo dei dati sul commercio estero. Il surplus, quindi l'attivo della bilancia commerciale italiana, ad aprile è salito a 2 miliardi e 580 milioni, al netto della componente energetica si toccherebbero i 5 miliardi e 600 milioni. Poi sono usciti anche i dati del Ministero del Lavoro sulle assunzioni ad aprile. Allora, 48.000 contratti in più da posto fisso, posto indeterminato, ossia i nuovi contratti accesi sono stati attivati, sono stati 171.000 contro 122.000 cessati. Le assunzioni sono state anche molto superiori rispetto a quelle che sono avute nell'aprile del 2014, 112.000. 210.000 nuovi contratti, dato in linea con l'aprile, dice il Ministero. Quindi, da quello che capisco io, non c'è un aumento dei nuovi contratti, ma o meglio 7.000 in più. È migliorata di nuovo la qualità dei contratti, nel senso che molti di questi sono contratti a tempo indeterminato. Cioè, nell'aprile del 2014 si registrarono 717.000 attivazioni e 514.000 cessazioni, quindi un saldo positivo di 203.000. Aprile di quest'anno il saldo positivo è di 210.000, che vuol dire, a casa mia, che ci sono 7.000 contratti in più. Certo, poi la qualità di questi contratti è diversa, perché ci sono molti in più contratti a tempo indeterminato, 48.000 in più, mentre un anno fa, da aprile di un anno fa, erano 6.000 in meno, quindi che stia migliorando la qualità dei contratti è fuori discussione, per il Jobs Act, per la decontribuzione per i primi 3 anni si assume tempo determinato che non c'entra col Jobs Act e vale dal 1 gennaio al 31 dicembre, che si stia creando nuovo lavoro, no, o meglio non in maniera significativa, sta migliorando il contratto di chi un lavoro già ce l'aveva, ok? E invece esulta anche la FIOM per il contratto che sarà applicato alla Lamborghini, che appartiene al gruppo Volkswagen, perché il modello tedesco di relazioni sindacali sbarca anche in Emilia, la Lamborghini di Sant'Agata Bolognese. Nell'accordo, che dovrà essere firmato dai 1145 lavoratori, si prevedono diritti di informazione, consultazione, contrattazione su tutti gli aspetti della vita lavorativa, con il rafforzamento delle commissioni tecniche bilaterali, è diciamo il contratto alla tedesca, migliori condizioni di lavoro per i dipendenti delle aziende esterne, si introduce il principio che i contratti a termine non possono superare il 10% del totale, aumentati anche i diritti individuali, ferie, permessi per il diritto allo studio, maternità e paternità e le retribuzioni. E poi lo IORM, ne parleremo, l'utile è salito a 69,3 milioni contro i 2,9 milioni del 2013, come frutto, lo scrivo io nel bilancio, della negoziazione dei titoli, quindi della capacità di comprare e vendere titoli anche azionari oltre che obbligazionari e anche di una riduzione dei costi operativi straordinari. 349-238-6666 per i vostri sms. La pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e, come promesso, perché lo facciamo la settimana prossima, torniamo a parlare del tema che ha tenuto banco tutta la scorsa settimana, mi riferisco alla scuola, anche e soprattutto per le molte polemiche che ha sollevato, che hanno sollevato alcune delle novità introdotte dal governo nella riforma scolastica. Are you with me? Are you with me? Sì, ne abbiamo molto discusso, anche perché appunto il 20 maggio con il sì della Camera alla riforma della scuola il testo, diciamo, è passato al Senato, ricordiamo i 316 voti a favore e i 137 contrari, ma soprattutto la grossa polemica non tanto sul numero di precari che verranno regolarizzati, lì polemica ce ne può essere poca, 100.000, ma su alcuni aspetti e in particolar modo sul ruolo del preside o del direttore scolastico, la possibilità che può avere il dirigente scolastico di dare degli incarichi triennali, che tra l'altro, come abbiamo spiegato più volte, riguardano non tutto il corpo docenti, ma solo una parte marginale, non gli insegnanti di ruolo. Questo ha scatenato numerose polemiche. Abbiamo detto che a nostro avviso si intravedeva questa difficoltà che al mondo della scuola e anche dei sindacati che lo rappresentano nell'accettare un principio di responsabilizzazione, che significa l'unico strumento attraverso cui passa il merito. Se tu vuoi introdurre il merito in senso proprio, cioè premiare i migliori e penalizzare chi lavora meno, devi anche responsabilizzare il dirigente scolastico, tant'è che poi nella riforma, che può avere mille limiti, ma c'è anche uno stanziamento per i bonus agli insegnanti, diciamo, giudicati più validi e che se lo sono meritati, la critica è in questo modo il preside, il dirigente scolastico diventa un monarca, diventa un satrapo nell'istituto. Beh, a nostro avviso è chiaro che se tu responsabilizzi ti prendi anche il rischio che, diciamo, le scelte siano individuali, ma allora o diciamo che nessun dirigente scolastico è in grado di fare una scelta, allora ammettiamo che abbiamo dei dirigenti scolastici incapaci di valutare un insegnante, oppure accettiamo il principio che il dirigente scolastico viene responsabilizzato in una quota parte, piccola tra l'altro, può scegliere dei contratti, diciamo, li sceglie lui questi insegnanti, e lì poi se la giocherà, perché poi verrà comunque valutato dagli ispettori del ministero. Ma al di là dei tecnicismi migliorabili, ripeto, a nostro avviso lì c'è tutto il tema del merito mal capito, perché il merito lo vogliamo tutti, poi quando arriva il merito tendiamo sempre a dire che è discriminatorio, che lascia il libero arbitrio. Certo che la valutazione è, diciamo, di carattere anche soggettivo, uno deve assumersi delle responsabilità. Ne parliamo con chi ha appena scritto un libro, per coincidenza, diciamo, non è un instant book, è un libro su cui ha lavorato negli ultimi 2 anni. Lui è Roger Abravanel, è director emeritus di McKinsey ed è autore con Luca D'Agnese di La ricreazione è finita, scegliere la scuola, trovare il lavoro, casa editrice Rizzoli. Buonasera Abravanel. Salve. Allora, dicevo, il libro è uscito in questi giorni per caso, nel senso non è un instant book, anche perché sarebbe difficile fare un instant book sulla scuola vista la riforma. Partiamo dagli elementi della riforma, e quindi poter conferire ai docenti l'incarico triennale e valorizzare il curriculum, la possibilità di dare un bonus, e poi arriviamo invece al resto dell'impianto della nostra scuola. Siamo noi troppo maliziosi o in tutte queste resistenze c'è un rifiuto di fondo di ciò che il merito vuol dire? Quindi responsabilizzazione, qualcuno sceglie, decide che tu sei più bravo, l'altro meno bravo, si sbaglia anche, ci possono essere il rischio di favoritismi e quello che volete, però o si fa così o se no restano solo gli scatti automatici, l'anzianità, quello che abbiamo visto fino adesso, cioè insegnanti che sono bravi solo per spirito di sacrificio del dovere, non certo perché ci siano meccanismi premianti né punenti nella scuola italiana. Abravanel. Mentre nell'impresa privata deve servire i suoi clienti, e se non li serve bene, a questo punto salta l'imprenditore, a questo punto sceglie i suoi dirigenti migliori. Nella scuola il padrone, che è lo Stato, si è preoccupato fino ad oggi molto più dei lavoratori, che sono gli insegnanti, piuttosto che sono dei clienti, che sono gli studenti. L'ha fatto anche perché purtroppo gli studenti si sono dati poco da fare a capire la qualità del servizio. Scelgono scuole sotto casa, non capiscono, non si danno da fare a capire quale università laureano meglio. Quindi fondamentalmente lo Stato si è trovato e si trova ancora oggi a scegliere i presidi sulla base di concorsi. Ma come li fa sti concorsi? Come qualunque burocrata, si scelgono i burocrati fondamentalmente scegliendo sulla base della conoscenza delle norme. Dopodiché oggi in Italia abbiamo 8.000 presidi, probabilmente ce ne sono di 1.000 assolutamente eccellenti, che lo sono non perché hanno vinto il concorso, l'hanno anche vinto, ma perché lo fanno per passione, per missione, per capacità. Il problema è che non si sa bene gli altri, no? Che sono invece dei veri burocrati. Quindi il punto di questa riforma, tenendo conto quindi che comunque i sindacati si oppongono a qualunque cambiamento in ogni caso, è che quello che ci vuole molta più trasparenza ai clienti della scuola, che sono gli studenti, di conoscere meglio le scuole migliori, più trasparenza sul valore della formazione per il lavoro. Perché alla fine uno degli obiettivi importanti della scuola è formare per il lavoro. Che è un tema che sembra scontato, però come lei diceva, quando parliamo di riforma della scuola il primo oggetto e soggetto anche sono sempre gli insegnanti, i presti, chi ci lavora, dimentichiamo ogni tanto, chiamiamolo così, il cliente della scuola, cioè lo studente è quello che gli serve. Resti con noi, Abravanel, perché vorrei capire, perché nel libro, al di là della riforma scolastica, date anche dei consigli pratici. E soprattutto avete intervistato molti responsabili di imprese, di aziende che poi devono assumere i giovani, gli avete chiesto in base a quali criteri li avete assunti oppure scartati, che è la cosa ancora più importante, dopo il meteo e la pubblicità. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Abravanel, continuiamo a parlare di scuola. Lei dice, insomma, ho capito il suo ragionamento, dice uno sa che questi 8.000 dirigenti scolastici, presidi, dentro questi 8.000 ve ne saranno alcuni bravissimi, altri normali e altri di qualità bassa. Tutti si concentrano hanno il timore di quello che potranno fare i dirigenti e i presidi in questa maggiore autonomia della chiamata diretta per una piccola parte, quelli di qualità bassa. Però continua a dire, non è che tu blocchi il principio di responsabilità e che uno possa scegliersi gli insegnanti che ritiene più meritevoli solo perché una parte di questi presidi, diciamo, è professionalmente non valido. Però è anche vero, perché sennò blocchiamo tutto per colpa dei mediocri e continuiamo a mantenerci una scuola in cui vengono sostanzialmente premiati mediocri, non gli insegnanti e i presidi che si impegnano. Detto ciò, se vogliamo parlare dei giovani di adesso e non di chi ha 5 anni adesso e i benefici di qualunque riforma scolastica li potrà godere fra 7-8 anni, dobbiamo anche ricordare a tutti che una riforma su un mondo come quello della scuola, per introdurre il principio del merito, della responsabilità, ci metterà 5-10 anni a svilupparsi, e nel frattempo cosa fanno i giovani di adesso, non quelli che avranno 15 anni fra 10 anni? E nel frattempo è esattamente il tema del mio libro. Il mio libro dice, in questi, siccome ci vorranno, come lui dice, 10-15 anni per costruire questa trasparenza, anche un forte controllo da parte del Ministero per poter avviare questa riforma, durante questi 10-15 anni bisogna che i giovani facciano qualcosa, perché sono loro i clienti delle scuole. È un po' il tema del mio saggio, quindi io credo che bisogna capire che oggi i giovani devono prendere in mano il proprio destino, perché il lavoro si può trovare. Io abbiamo spiegato, oggi in Italia il tasso di disoccupazione giovanile è alto, ma soprattutto, ed è alto anche in altri paesi, ma è il record dei paesi più sviluppati, il rapporto fra il tasso di disoccupazione giovanile e il tasso di disoccupazione totale. Cioè in Italia per i giovani è più difficile trovare lavoro che in nessun altro paese, e questo, a detta dei datori di lavoro, che sono quelli a cui noi ci siamo rivolti, è dovuto in grandissima parte anche alla scuola. È vero che è anche colpa delle aziende, che sono troppo piccole, ne abbiamo parlato tante volte, ma è anche molto della colpa della scuola. E quindi, peraltro, ogni anno ci sono 300.000 giovani neodiplomati e neolaureati che trovano lavoro. Come hanno fatto? Il nostro libro si indirizza a quelli che hanno dai 13 ai 18, 19, anche 20 anni, per dare dei suggerimenti pratici su come devono farlo. Quindi prima di tutto devono capire il mondo del lavoro, che è cambiato. Una delle cose che credo anche qui al Sole 24 Ore abbiate ripreso in passato è che il mondo del lavoro di questo secolo è tutto diverso da quello del secolo scorso. Nel secolo scorso si chiedeva un mestiere, era il tempo, se devi sapere, fare qualche cosa. Oggi il mestiere, proprio perché è cambiato il mondo, ci sono più servizi, c'è la globalizzazione, c'è la tecnologia, è importante, ma i datori di lavoro chiedono qualcosa di più. Chiedono, primo, l'etica del lavoro. Cosa vuol dire l'etica del lavoro? Vuol dire essere responsabili sul posto di lavoro senza che un capo ti guardi. La seconda cosa che chiedono è problem solving, la capacità di risolvere problemi concreti. Pensa fondamentalmente a un addetto al check-in che gli si rompe il sistema informatico, sta lì, non fa niente, no, si arrangia, va sul sistema cartaceo, fa quello che vuole. Terza cosa che chiedono una cosa estremamente importante, la capacità di comunicare. Perché oggi il mondo del lavoro è molto un servizio, quindi devi saper comunicare con i clienti, con i colleghi. La quarta cosa, chiedono il teamwork. Quindi lei dice, Bravanel, al di là delle competenze specifiche, perché è chiaro che ogni posto di lavoro, ogni datore di lavoro, ogni ricerca di lavoratori ha delle competenze specifiche, quello che avete scoperto come tratti comuni nelle nuove forme di lavoro, che sono sempre meno un mestiere e sempre più delle competenze, e analizzando le richieste, intervistando i datori di lavoro, quando dicono cosa aspetti da un giovane, ripeto, al di là delle competenze specifiche di quel lavoro, etica del lavoro, se ho ben capito, capacità di risolvere i problemi, quindi etica del lavoro come responsabilizzazione, capacità di risolvere i problemi anche quella come responsabilizzazione, cioè non chiedere sempre a papà o qualcuno che arrivi lui, capacità di comunicare, nel senso di non restare chiuso in un guscio perché hai quella competenza, e il teamwork, quindi la capacità di lavorare assieme, perché nei lavori, diciamo, dei servizi soprattutto, visto che lì si va, il lavoro è quasi sempre, direi esclusivamente, un lavoro comunque di gruppo, difficile che ci sia il solista e basta. Sono attrezzati però i datori di lavoro che voi avete intervistato per selezionare questi giovani? Purtroppo in Italia una delle ragioni della mancanza di competitività delle aziende è stata la loro incapacità, essendo piccole e non volendo crescere, a valorizzare il capitale umano. Ma sta cambiando molto, e sta cambiando, ma soprattutto c'è oggi un certo numero di aziende, medie, medie, grandi, noi raccontiamo storie di aziende come Luxottica, come GD, come Selunga, cioè aziende che comunque oggi assumono migliaia ogni anno di giovani, i quali sono attrezzati in modo straordinario a valutare queste, chiamiamole, soft skills. Bravanel, voi nel libro date anche dei consigli su come scegliere una scuola o la scuola più adatta, fermo restando che non è la scuola che ti trova il lavoro, e che quindi tutto parte dall'assunzione di responsabilità, l'etica del lavoro, il problem solving, cioè risolvere i problemi senza aspettare che la scuola o il papà o l'insegnante te le risolva, che c'è sempre qualcuno che ti dica cosa fare se sei in difficoltà, insomma. Ma voi date anche dei consigli pratici. Una cosa molto importante è che queste famose skill del XXI secolo bisognerebbe impararle proprio a scuola, durante la formazione. E noi spieghiamo nel saggio come in qualche scuola si imparano, in altre meno, e soprattutto che manca questa formazione al lavoro fatta durante la scuola, che è un problema, il famoso apprendistato. L'apprendistato all'italiana e la scuola lavoro è veramente molto diverso da quell'apprendistato alla tedesca. L'apprendistato alla tedesca non è uno stage, si lavora durante gli studi. Allora, quali sono i suggerimenti? Ma il primo suggerimento, parlavamo di età, 15-16 anni, è cosa scegliere alle superiori. E lì fondamentalmente la cosa più importante è scegliere sulla base delle proprie passioni e non su quello che sono le passioni o comunque le indicazioni dei propri genitori. 25% dei ragazzi che scelgono il liceo abbandonano, e quando abbandonano, abbandonano. Peraltro noi abbiamo delle storie molto importanti di ragazzi, figli di operai, che invece si reinventano e fanno poi l'università, e purtroppo ne abbiamo molto pochi, e questa è la ragione per cui ci sono pochi laureati in Italia. Quindi scegliere sulla base delle proprie passioni. Poi quale scuola? Qui entriamo al tema importantissimo del famoso soft skill. Nelle scuole buone, queste soft skill, queste competenze si insegnano con una didattica completamente diversa. La didattica tradizionale è quella in cui è l'insegnante che sta in una cattedra, insegna, fa la lezione, lo studente prende nota, studia a casa e viene interrogato. Questo nelle migliori scuole del mondo, e anche in molte italiane, si fa sempre meno, perché il ragazzo al limite studia a casa il materiale che gli viene mandato tramite internet e poi viene a scuola, e a scuola cosa si fa? Si dibatte, si discute, si fa progetti. L'insegnante non sta dietro la cattedra, sta insieme ai ragazzi a parlare, a discutere. Ci sono delle storie che abbiamo raccontato nel nostro saggio che proprio spiegano come questo formi proprio alla preparazione al lavoro. E poi c'è questo tema dell'etica dello studio. I ragazzi italiani, gli studenti italiani sono il record mondiale delle assenze giustificate, 60% contro 15% media delle europee. Che tu non puoi imparare l'etica del lavoro e se non impari l'assenza genitori. Si copia, ti vengono suggeriti dagli insegnanti quindi bisogna scegliere le scuole, che sono scuole, può sembrare una banalità, serie, dove bisogna andare a capire se questa didattica si svolge in modo tradizionale o nuovo. E come si capisce? Andando a capire il preside. Perché non è sbagliata l'idea della buona scuola di puntare sul preside, perché il preside non è un capo degli insegnanti che li valuta se conoscono bene la matematica o la storia. È un leader, è esattamente come un dirigente, uno che li motiva, che li ha passione, e ce ne abbiamo tanti in Italia. Quindi le famiglie che devono scegliere quale scuola devono andare a parlare con i presidi. E assicuro che si capisce subito. Io nel mio saggio racconto storie di 4-5 presidi straordinari che di loro iniziativa hanno fatto delle cose straordinarie. Grazie, potremmo parlarne per ore, ma chiaramente non abbiamo lo spazio. Grazie a Roger Bravanelli, il saggio è La ricreazione finita, scegliere la scuola, trovare il lavoro. Grazie mille. E casa editrice Rizzoli. Dunque, molti messaggi. Mi scrive un ascoltatore: ma insomma, domani vado da un'azienda, gli parlo di etica del lavoro, così mi assumono. Ma guardi che nessuno ha detto questo, però voglio dire, è anche importante cercare di capire con chi queste cose le studia, quali sono i criteri, al di là del fatto che ovviamente un'impresa, se fa dei colloqui, è perché ha bisogno di una, non è che basti andare con l'etica del lavoro, ma nel momento in cui un'impresa deve assumere, e ce ne sono 300.000 i giovani che trovano lavoro ogni anno, capire che cosa fa la differenza. Allora, un ragionamento che dica: va bene le competenze, ma in un mondo com'è il mondo del 2015, in cui le competenze invecchiano in un secondo, casomai l'aggiornamento è quello che devi fare. Nessuno sta dicendo che il mondo sarà solo di servizi in senso di non produzione, ma sapete benissimo che anche nella manifattura si chiede una flessibilità maggiore rispetto a 20 anni fa, per non parlare di 30-40 anni fa. Allora, ascoltiamo quello che ha scoperto andando in giro per l'Italia, facendo le interviste a Bravanelli, e cioè le caratteristiche che tutti i datori di lavoro gli hanno elencato. E etica del lavoro sembra scontata, ma non è così scontata, parlo anche per esperienza, su capacità di lavorare assieme non è scontata. Assunzione di responsabilità e problem solving non è scontato, c'è sempre qualcuno che dice: beh, io non lo so fare, aspetto che mi dica qualcosa a capo. certo, poi uno dice, se qualcuno scrive, sì, volete il problem solving perché i manager sono incapaci, vabbè, può essere anche così. Dai, traffico. Focus Economia. Diretta, adesso arriviamo. Vabbè, vedo che qui non sono d'accordo con quello che diceva Bravanelli, va bene anche così. Arriviamo alla borsa che ha chiuso a Milano in calo del 2,1%, Parigi che è l'altra borsa aperta, meno 0,50%, chiuse Francoforte, New York e Londra, euro a quota 1,09. Eccolo qua adesso il prezzo del Monte dei Paschi, dopo che appunto non ha fatto prezzo nell'azione nel diritto, chiaramente ex aumento di capitale il rimbalzo dell'11,28%. Ci arriviamo tra un secondo, perché prima vorrei commentare, è periodo di conti, dei conti un po' particolari, quelli dello IOR, che ha chiuso, la banca del Vaticano detta anche, ha chiuso il 2014 con un utile netto di 69 milioni di euro contro i 3 milioni dell'anno prima, grazie soprattutto, se ho ben capito, al risultato della negoziazione dei titoli e diminuzione dei costi operativi di natura straordinaria. Quindi, insomma, bravi a investire, devo dire, nella Banca del Vaticano. Carlo Maroni, buonasera. Buonasera, ciao a te. Sì, sono bravi. Che hanno preso, diciamo, l'onda dei mercati dello scorso anno, soprattutto quelli obbligazionari, e quindi hanno guadagnato bene, oltretutto lavorando su un patrimonio non enorme, stiamo parlando di 4-5 miliardi tra quello che viene gestito sui mercati e quello di patrimonio proprio, anche meno forse. E poi hanno tagliato questi enormi costi che avevano, limitatamente a Maior, ovviamente, enormi, nel senso che Maior alla fine è una piccola banca, perché c'erano questi consulenti americani che hanno fatto per 2 anni la ripulitura dei conti, che è l'altra notizia della giornata. In 2 anni hanno chiuso 4.600 conti, quindi da 20.000 sono scesi a circa 15.000 i conti allo IOR. Soprattutto hanno chiuso quelli, diciamo, di chi non poteva averceli. Ecco, adesso arriviamo anche a quello. Dico, bravi, dovremmo invitarli a Cuore Denari, alcuni degli analisti, insomma, degli operatori finanziari, dei gestori dello IOR, perché hanno ottenuto 36,7 milioni di risultato netto di negoziazione, quindi compra-venta di titoli, contro una perdita di 16 milioni e mezzo l'anno prima, nel 2013, quindi oggettivamente hanno saputo fare asset allocation al Vaticano. Cos'è appunto la storia a cui tu accennavi della chiusura dei conti laici o inattivi? Ne hanno chiusi 3.154 con un valore anche importante. Prego, Carlo. Sì, nel senso che l'ha chiusi proprio lo IOR, alcuni 1.000 rotti se ne sono, 1.500 hanno chiusi, diciamo, i titolari, quindi quelli sono stati chiusi così. Invece 3.100 sono stati chiusi dallo IOR, nel senso, per due motivi. Il primo era che conti dormienti, cioè nel senso che non sono rimasti lì vedove di dipendenti vaticani o vecchi monsignori che magari hanno cambiato paese, e quindi conti dormienti. Invece 550, che sono quelli forse più significativi, sono i cosiddetti conti laici, cioè di soggetti che non avevano il diritto di avere il conto allo IOR. La famosa polemica su perché alcuni laici avessero il conto allo IOR, e quelli li hanno chiusi, giusto? No, li hanno chiusi, non è che detto che siano tutti truffaldini. No. Alcuni di loro sì, però. Alcuni di loro sì, insomma. Altri comunque sospetto ce l'hanno lasciato, ne abbiamo già parlato proprio con te. Quindi, insomma, va bene occuparsi delle cose, diciamo, celestiali, ma anche sulle cose terrene. Lo IOR si è mosso molto bene, visti i guadagni che ha fatto sulle cose più prosaiche, più mondane, come si direbbe con un gergo. Si è mosso bene, visto che ha fatto appunto un 37 milioni quasi di risultato netto solo delle operazioni sui titoli. Grazie anche a Carlo Marroni. Adesso il GR24, poi la borsa e la Grecia che non vuole pagare. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni alle 9 su Radio 24 con le provocazioni dei faccia a faccia, le inchieste, le sfide della gente e ancora le novità in rosa di Sara Tardelli, i graffi di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia di Marina Milone. Ogni giorno andiamo a caccia di verità con il fact checking, le parole alla prova dei fatti. Mix 24 di Giovanni Minoli, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 su Radio 24. Focus Economia. 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Adesso parliamo della borsa e poi insomma di quello che sta capitando in Europa, non solo la Grecia che ha detto che non può ripagare, non ha il miliardo e mezzo, non lo vuole dare al Fondo Monetario Internazionale, ma anche e soprattutto l'esito elettorale in Spagna, dove attenzione, nessuno sta facendo degli sbagliati paralleli erronei tra Podemos, Syriza, la Polonia. Stiamo solo dicendo che se c'è un comune denominatore è la contestazione verso questo tipo di gestione dell'Europa, dell'area euro e anche dell'Europa in generale, vista l'Inghilterra. Comunque, la Gran Bretagna. Prima di tutto la borsa, dicevo, meno 2,1% oggi Milano. Parigi, che era l'altra borsa aperta, meno 0,50. Male oggi tutto. Attenzione, sul Monte dei Paschi, chi dovesse guardare oggi gli indici non capirebbe nulla, perché chiaramente c'è un banca Monte dei Paschi che sostanzialmente perde il 18,41%, e poi c'è banca Monte dei Paschi che guadagna l'11,28%. Non siamo impazziti, è l'effetto dell'aumento di capitale, anche se oggi Mario Draghi ha detto che l'aumento di capitale da solo non basterà a risolvere i problemi strutturali del Monte dei Paschi. Ci spiega anche insomma come leggere gli indici oggi. Ciao Condina di Radio Cori, sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, Monte dei Paschi da un lato e banca Monte dei Paschi Siena dall'altro, quello che troviamo nel listino anche di Radio Cori. Sì, dai, diciamo che oggi insomma, è un andamento un po' difficile da decifrare per i non addetti ai lavori, però sostanzialmente è successo quello che è successo un anno fa, quando c'è stato il primo giorno, diciamo, di contrattazione dei diritti e delle azioni dell'aumento di capitale del Monte dei Paschi. Infatti già un anno fa avevano chiesto 5 miliardi al mercato, questa volta ne chiedono 3. Cosa succede? Succede che sostanzialmente il prezzo, come hai detto tu, ha subito diciamo un balzo dell'11,2%. Ricordiamo che comunque si le azioni che i diritti non sono riusciti a far prezzo per l'intera seduta, quindi questo è proprio il prezzo di chiusura. Il diritto invece è crollato del 18%. Tutto ciò è legato diciamo sia alla volatilità che è legata poi anche a diciamo caratteristiche iperdiluitive dell'aumento di capitale, cioè chi non lo sottoscrive, anche se oggi è presente nell'azionariato, di fatto scomparirà. Tuttavia, al di là di tutti questi numeri, possiamo sintetizzarli in un solo modo: se prendiamo il prezzo diciamo di venerdì del Monte dei Paschi e lo confrontiamo con i prezzi sommati di oggi delle azioni e dei diritti, quindi il combinato, in modo ad avere diciamo una comparazione che ci dà un po' il termometro di quello che è il mercato. Esatto, di come si sarebbe un sottotitolo di riferimento, cioè cercando diciamo un confronto col titolo precedente. Meno 12% è questo confronto, quindi diciamo che da venerdì a oggi, se si sommano le azioni e i diritti, hanno perso il 12%, quindi il mercato non è che al mercato piaccia tanto questo aumento di capitale. No, e devo dire che tra virgolette non ha aiutato nemmeno Mario Draghi, perché nel momento in cui il presidente della BCE dice attenzione, non basterà risolvere i problemi strutturali, non è che proprio dia un commento positivo, diciamo, sull'aumento di capitale. Vabbè, meno tanto Monte dei Paschi è chiaramente considerata uno dei candidati più forti nelle operazioni di fusione. Problema è capire chi se lo prenderà e in che termini. Il rischio bancario continua sulle banche popolari. Oggi tra l'altro proprio le banche popolari hanno sofferto. Banco Popolare meno 2,1%, Pop Emilia Romagna meno 2,90%, ma non da sole, perché male è andata anche per Unicredit meno 3,20%, Intesa San Paolo meno 2,1%. E continuando sul fronte bancario, faccio notare che non si trova nulla di positivo tra le banche maggiore capitalizzazione. Che cosa è successo? Grecia, timore di un nuovo strappo sui tassi di interesse? Direi essenzialmente 3 fattori: la Grecia sicuramente, poi insomma la vittoria di Podemos in Spagna, che da alcuni operatori viene vista come un potenziale evento diciamo destabilizzante, poi anche qualche realizzo, perché le borse venivano da alcune sedute di importanti rialzi, c'è qualcuno che ne ha approfittato oggi. Altro titolo, Fiat Chrysler Automobiles, meno 3%. C'è un no di General Motors alla fusione, che abbiamo letto anche sui giornali del fine settimana. Anche Xor però è in calo, è del 2,86%, che è la controllante del gruppo Fiat. Sì, sicuramente pesa questo stop di General Motors, anche se diciamo certamente è solo uno dei capitoli, quella che potrebbe essere la storia delle potenziali aggregazioni nel mondo automobilistico, che è destinato comunque a un consolidamento. su Fiat pesano anche come per le borse dei realizzi importanti. Il titolo viene da un rally che l'aveva portato fino a 15 euro e insomma oggi con la controllante Exor, che peraltro è impegnata in un'altra tra virgolette battaglia negli Stati Uniti, che è quella per la conquista dei partner, sicuramente non hanno vissuto una seduta brillante. Allora, tra chi invece poi si è mosso oggi, abbiamo visto la Cassa di Risparmio di Genova muoversi in controtendenza, poi nella chiusura adesso la vediamo, più 0,90, più 0,90, ecco, lì c'è Malacalza che è salito quasi al 15%, no? Sì, sì, ha raggiunto un accordo con i soci francesi, ha rilevato il 4,6% e si è portato quindi al 15%, chiaramente un socio del peso della solidità di Malacalza non può che diciamo che confortare i mercati sull'andamento della banca. Migliori e peggiori, dicevo, di nuovo Fedoni in evidenza, più 9,34%, Bio2 più 8,70%, la Lazio, lo dico a chi sta seguendo la partita, siamo ancora sullo 0-0, ma la Lazio oggi guadagna l'8,40%, Lucisano Media Group più 7,1%. Ancora fronte opposto invece Microsport perde il 35% e LN meno 4,60%, Finmeccanica meno 4,46%. E poi Vita, società editoriale, meno 4,25%. Grazie a Ceo Condena, Radio Cori, Sole 24 Ore. Il traffico, e a questo punto dopo il traffico anche Podemos da un lato, e quindi la vittoria netta anche oltre le aspettative. Quindi dicono no, ma ha vinto, no, attenzione, insomma, è andata bene, c'è niente da dire. Podemos, quello che è successo in Polonia e soprattutto la risposta della Grecia, che ha fatto capire in maniera molto netta sì che è disponibile a trattare, ma insomma la dichiarazione di ieri, non abbiamo soldi, non potremo pagare le rate del prestito del Fondo Monetario, non abbiamo i soldi per farlo, e ancora oggi Siriza ha bloccato le richieste degli estremisti all'interno del suo partito che volevano non rimborsare tout court i debiti del Fondo Monetario Internazionale, che è un buon segnale se vogliamo, però insomma il tema c'è tutto, e nel caso specifico dell'Italia noi siamo esposti per circa 20 miliardi di prestiti diretti con la Grecia. Ne parliamo con un uccellaccio che è tornato a trovarci dopo il traffico. Smau ti aspetta a Bologna, 4-5 giugno, Bologna Fiere, smau.it. Vi presenta Focus Economia. Decían hace un año que no se podía desafiar al bipartidismo, que la dignidad no podía estar en las instituciones, que no se podía derrotar a Esperanza Aguirre y al gobierno de la corrupción. Muchas gracias, Manuela, muchas gracias, Madrid, por demostrar que sí se puede. Once you are in a monetary union, getting out of it. Una volta che si è entrati in un'unione monetaria, uscirne è catastrofico. Noi non abbiamo una valuta nazionale agganciata all'euro. Abbiamo solo l'euro. È come avere una moneta straniera che diventa la tua moneta. Tentare di uscire da questa situazione sarebbe come annunciare una svalutazione con mesi di anticipo, con effetti disastrosi. E lo sarebbe per tutte le parti coinvolte. Lo sarebbe innanzitutto per l'economia e la società greche, ma sarebbe anche l'inizio del progetto europeo di unione monetaria. Indipendentemente da qualsiasi cosa possano dire le analisi sui sistemi di difesa della zona euro, una volta che si mette nella testa degli investitori che l'euro non è indivisibile, è solo una questione di tempo prima che tutto inizi a disfarsi. Avete ascoltato in sequenza il festeggiamento, l'esultanza di Pablo Iglesias per la vittoria anche a Madrid. Non ha vinto solo a Madrid, ha vinto dappertutto, ha conquistato Barcellona, avrà il sindaco di Madrid e quant'altro. E subito dopo invece era lo stesso Varoufakis, il ministro delle finanze greco, che diceva attenzione, l'uscita della Grecia dalla moneta unica sarebbe l'inizio della fine per il progetto dell'euro. È chiaro che Varoufakis lo dice anche pro domo suo, ma insomma qui siamo, da Podemos a l'uccellaccios che vola sopra di noi, professor Sapelli, buonasera. Buonasera, caro Barisoni. Sono tornato a trovarla. Allora, anche gli ascoltatori, mi dica. No, dico, qui la situazione si sta leggermente complicando, o forse la vediamo solo noi. Nel senso che poi oggi Renzi ha detto il vento della Grecia, il vento della Spagna, il vento della Polonia non soffiano nella stessa direzione, soffiano in direzione opposta, ma tutti questi venti ci dicono che l'Europa deve cambiare. E io spero che l'Italia potrà portare forte la voce del cambiamento nelle prossime settimane in Europa. Io però vedo, al di là dei venti, tanti venti così fanno burrasca. Allora, cioè... Prego, prego, vada a sapere. No, no, fanno burrasca, come dice giustamente lei, perché sono direzioni opposte. Però sono problemi profondamente diversi. Diciamo che però vanno tutti nella direzione di contestare la politica dell'austerità europea. Aggiungo anche che lei ha fatto bene a sottolineare la vittoria di Podemos, che è schiacciante. Sempre una vittoria pactata, dovrà fare degli accordi. Però non dimentichiamo che anche Ciudadanos, che è un partito che viene che nasce in Catalogna contro le istanze separatiste catalane, poi è diventato via via un partito conservatore nazionale, ha raggiunto dei buoni risultati, e quello è un partito anti-Europa dell'austerità, non anti-euro, ecco. Quindi diciamo che quello che lei dice è molto vero. La questione della Grecia è tutta un'altra cosa, è che secondo me, da come stanno andando le cose, da questa entrata in gioco anche del Fondo Monetario, tutti ormai sono convinti bisogna far di tutto perché la Grecia non esca dall'euro, e quindi sicuramente si troverà una soluzione al debito, questo mi pare ormai. A Riga c'è stato questo incontro Hollande, Merkel e Renzi anche su questo tema, dove mi pare che stiano andando di filato verso un accordo. Quindi alla fine, al di là diciamo di tutti gli elementi di principio, dei tatticismi così, alla fine torniamo al punto molto fondamentale, e sono più i rischi e i danni che ti farebbe un'uscita della Grecia dall'euro, certo. No, ma non tanto perché noi abbiamo prestato 40 miliardi di cui ma 20 no, miliardi diretti. Ma sono bruscolini questi, cosa vuole che sia? Però posso dire una cosa, lo so che è brutto fare la storia con i se, con i mai, col senno certo, di poi, certo, però voglio dire, è dal 2010 che ci stiamo smazzando sta vicenda greca, e in tutti i modi abbiamo provato a far capire che tanto, per come è messo il paese, sì, tu potevi solo rinegoziare con una lunghissima scadenza il debito, non far morire il debitore, ma era inutile continuare a dire adesso ci ripaghi, adesso... No, cioè... d'accordo con lei Barisoni, però... Lei, con questa sua eloquenza che gli viene dalla giovinezza, dal dono divino cristiano della giovinezza, sottolinea i tempi diversi dell'economia e della politica. Adesso siamo arrivati al dunque a capire che l'Europa è un gioco politico. E anche la questione dell'uscita o meno dell'euro non ha nulla a che vedere con la politica economica e con l'economia, è solo un fatto politico. Quindi hanno aspettato per vedere come andavano le elezioni in Spagna. Ha visto le elezioni in Spagna non vanno molto bene per i popolari, per gli austeriti, e los sostenitori dell'austerità, e quindi hanno aspettato questo, hanno visto che il Fondo Monetario, sia Blanchard, il capo economista del Fondo Monetario, che ha sempre detto già da quel tempo che lei evocava che bisognava risolverla politicamente, questa questione greca, erano spiccioli, il punto delle noccioline, la gara. E poi c'è stato Draghi, che anche se è stato bacchettato da Simon Fischer a Sintra, che è stata una cosa molto interessante di cui nessuno ha parlato in Italia. Simon Fischer è il suo mentore, il governatore della banca israeliana, governatore della banca centrale israeliana, un tempo adesso vice governatore della Federal Reserve, gli ha detto: senti, non parlare più di riforme, non è compito tuo, tu fai il banchiere centrale, lascia ai politici che risolvono le cose. Quindi si è risolta con la politica, perché la politica economica europea è eminentemente politica. Non conviene a nessuno far uscire la Grecia, sarebbe vuol dire dare un regalo ai populismi enormi. Quindi si sono calmati tutti, anche Schäuble. Sì, quindi lei dice, sì, siamo un po' naif noi, perché tanto... Lo dico senza provocazione, certo, perché tanto la politica europea voleva vedere che prese avrebbero avuto. Prima l'ha avuta a gennaio, certo, Syriza in Grecia, poi adesso Podemos e il partito conservatore in Polonia, che anche lì è molto scettico con l'euro e con questa gestione d'Europa. Sono Meli Kaczynski, di cui Duda è un erede, il nuovo presidente. C'è stata una dichiarazione di Lech Wałęsa recentemente molto bella, che tutto voleva meno la vittoria di questo presidente, che dice addio, se vince questo politicamente l'Europa dovrà tenerne conto. Insomma, ecco. Wałęsa è un uomo di esperienza. Però il mio punto è questo, mi scusi Sapelli, perché lei dice, va bene, la classe politica europea, i conservatori, chi difende l'austerity, i popolari in primo luogo, ma non solo, perché la CDU di Angela Merkel appartiene ai popolari europei, hanno visto che le cose buttano male in Spagna, in Grecia, in Polonia, e adesso daranno una... Ma non è che tutto questo però non è a costo zero, cioè nel senso che tu, ho capito, hai aspettato per vedere come andavano le cose, ma qui lo scetticismo continua a aumentare, certo, nel senso che perdi anche la faccia e rischi semplicemente di dare l'impressione di voler salvare la Grecia, ma non di aver capito però veramente la lezione. Sì. Però mi scusi Barisoni, lei fa un discorso molto giusto, ma a me per esempio, che penso che la politica della Merkel sia stata catastrofica, che ha distrutto l'idea stessa dell'Europa, se la Merkel perde la faccia, credo che sia un bene pubblico. Sì, un bene per tutti. Ma siamo convinti. Se perdono la faccia, la perdono. No, ma guarda, io non mi preoccupo della Merkel che perde la faccia. Io cerco di capire se. Ma nessuno deve più credere a questa favola del 3%. Ma lo capisci o no? Vabbè, me lo dice. Ma scusa, se tu credi ancora nel fiscal compact, vuol dire che sei fuori del mondo, Barisoni. Quello che sta avvenendo è che stanno smantellando la sbagliata politica economica, pezzo per pezzo. Lo fanno con calma, non possono mica. Non possono mica darci delle martellate. Ecco, ma la domanda era appunto questa: lo fanno perché a questo punto per un calcolo politico, ma non perché hanno capito che sia realmente sbagliata tutta l'impostazione che l'area euro si è data dal 2009 No. Questo l'hanno capito un'esigua minoranza, tra cui giustamente credo sia Podemos, sia Ciudadanos, sia da un altro punto di vista AGF. Germania sa questo partito di intelligenza anti-austerità, quindi voglio dire, l'hanno capito delle minoranze. Renzi in Italia, devo dire, tirò fuori un certo coraggio, perché voglio dire, con questa metafora dei venti procellosi, cerca di andare in questa direzione. Ma gli altri, il mondo dell'austerity, insomma, il mondo che ha dominato finora, non l'ha capita assolutamente, continuerebbero per pervicacemente. Quindi lo fanno solo perché obbligati, non perché hanno realmente compreso. Questo mi conforta un po' di meno, la lascio rivolare nei suoi lidi spagnoli, polacchi, greci. Ma grazie. Dove vola lei? Sono molto più, io vado verso il regno della libertà, sono britannico. Pure un altro paese che vuole proprio uscire dall'Europa tout court, neanche dall'euro. La culla della civiltà, lì c'è la Magna Carta, vorrà dire qualcosa, no? Escono dell'Europa. Rifletto, la ringrazio, grazie anche all'economista Giulio Sapelli, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni le auguro una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.